ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Mattino. Sono le persone come me che hanno qualche problema di salute, cercano di evitare di utilizzare i mezzi pubblici durante gli orari di punta, quindi io inizio a lavorare alle 8 e ho preso il pullman stamattina alle 5:56 del mattino. Se aggiungessero qualche corsa sarebbe meglio, perché magari potrei prendere la corsa delle 7 del mattino e non quella delle 6. Noi, la nostra azienda, che è un'azienda di trasporto pubblico, per contratto ha l'obbligo di avere i contapasseggeri e abbiamo tarato la capienza sulla proporzione dell'80% e quello che ci garantisce appunto il controllo del contapasseggeri, e quelli facciamo salire. Se proteggere i nostri interessi, i nostri figli e le nostre famiglie da una immigrazione non controllata e senza dare garanzia a queste persone non solo di una corretta sanità, ma anche garantire loro un lavoro, una casa, questo non è essere intolleranti. Devi intervenire su questo, Simone. Ma guarda amico mio, io penso sinceramente quello che dicevo prima, che secondo me il grande buco di questo paese è esattamente il sistema di accoglienza, ma non lo diciamo da oggi che funziona male. Ci sono degli straordinari esempi di eccellenza, vanno segnalati, forse noi giornalisti li raccontiamo poco, però ci sono di persone che seguono un percorso di accoglienza e di integrazione che funziona e ricordiamoci anche che un pezzo importante dell'immigrazione extracomunitaria è un'immigrazione che lavora nelle nostre case, nei nostri uffici, nelle fabbriche. Non è solamente il racconto del problema urbano della sicurezza. È vero dall'altra parte che c'è tutto un mondo di integrazione e di accoglienza che non funziona per nulla, e lo dicevamo prima, gli esempi possono essere il CARA di Isola Capo Rizzuto, dal quale si esce, si fanno 48 ore fuori dormendo in un capannone in condizioni allucinanti per poi essere portati dai caporali a lavorare, aperte virgolette, chiuse virgolette, nei campi a fare gli schiavi, perché poi è questa la sostanza, o quasi, nei campi. C'è il caso di Agrigento, che evidentemente con la rivolta di ieri ci dimostra che c'è una gestione che non è quella giusta, non è fatta bene, è problematica. L'abbiamo raccontato spesso. Ci sono casi di malaffare, cioè di cooperative che un po' fittizie, che prendono i soldi così e poi non danno i servizi che dovrebbero dare, però ci sono anche casi di cooperative che invece il lavoro lo fanno bene. Anche là è una questione di controlli, no? Di come gestisci le cose. Cioè non è tutto una mangiatoia come dice Salvini, ma non è tutto bellissimo come dicono gli altri. È molto semplice, le cose stanno sempre un po' a metà su questo fronte. Ne parliamo dopo comunque. Dopo le 8, se vi va di intervenire, dopo le 8:15 all'800 24 00 24, oppure al 349 238 6666 con i vostri WhatsApp audio e le vostre voci. Sul trasporto pubblico locale, sì, ci vogliono più corse, e dico all'ascoltatrice che è responsabile di un'azienda di trasporto pubblico, dico sì, però non tutti l'hanno messo il conta persone, non tutti l'hanno messo. Allora, i titoli dei giornali, vabbè, veramente in volata, perché questa è la seconda parte di 24 mattino, come sapete, quella dedicata alla rassegna stampa. Giovedì 8 ottobre, sono le 7:23 minuti e 48 secondi. Molto rapidamente, perché in realtà sono tutte dedicate alle nuove misure e alla paura del Covid, a volti coperti è il titolo del Manifesto, ricomincia l'incubo è quello del Giornale. Campania e Lombardia, maglie nere del Covid, il Fatto Quotidiano. Virus, la paura del Sud, la Repubblica. Corrono i contagi, ora c'è la stretta, il Corriere della Sera. Contagi come nel lockdown, fate attenzione in famiglia, il titolo del Messaggero. Regole anti-Covid anche in famiglia, il titolo del Quotidiano Nazionale. Impennata dei contagi, l'allarme di Ricciardi. Regioni addormentate, titola La Stampa. Sulla mascherina, titola Avvenire. 750 milioni di infetti nel mondo, queste sono le stime diffuse dall'Organizzazione della Sanità, scrive Libero. Conte delira, mascherine in famiglia è il titolo della Verità. Il Sole 24 Ore invece, che pure dà spazio a Covid, titola sui crediti a rischio e la BCE che striglia le banche. Iniziamo. Vi va se iniziamo? Ah, tanto comando io qua, quindi decido io. Però, iniziamo dai soldi pubblici, da come vengono utilizzati i soldi pubblici. Vi va? Ma sì, dai. Facciamo due puntate. Una sul reddito di cittadinanza e una su Alitalia. Attenzione. Iniziamo da Federico Fubini. Nelle pagine economiche del Corriere della Sera, siamo a pagina 38, dalla quale apprendiamo cosa? Che dal reddito di cittadinanza è escluso 1 milione di poveri del Nord. Ossia, il provvedimento è fortemente squilibrato verso il Mezzogiorno. Se il reddito di cittadinanza offrisse al Nord la stessa copertura che garantisce al Sud, scrive Fubini, oggi oltre 1 milione di persone in più riceverebbe il sussidio. Invece questa misura, disegnata per contrastare le condizioni di bisogno, sta funzionando molto meglio al Mezzogiorno che al Settentrione. In ciascuna delle due grandi aree del paese vivono oggi circa 2 milioni di persone in povertà assoluta. Eppure le famiglie raggiunte dal reddito nelle regioni meridionali sono più di 3 volte più numerose di quelle che vivono al Nord. E qual è il perché avviene questo? È il risultato delle regole di accesso al reddito di cittadinanza, appunto, che sbarrano l'accesso a 1.200.000 persone tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Perché? Perché i requisiti di accesso non coincidono con quelli sui quali si calcolano le soglie di povertà. Queste ultime, le soglie di povertà, cambiano con il variare del costo della vita nelle diverse aree d'Italia. Esempio pratico portato da Fubini. Una famiglia con 2 figli minori in un grande centro urbano del Mezzogiorno per l'Istat è povera se non raggiunge un reddito di 1.351 euro al mese. In una città del Nord ci vogliono 1.720 euro e però, dato che le regole di accesso al reddito di cittadinanza sono uguali per tutti, la famiglia povera del Nord che, essendo al Nord, spende di più per vivere, ebbene, rimane esclusa. 1.200.000 famiglie escluse, stando a Federico Fubini. Alitalia non ha più quattrini un'altra volta. Apprendiamo, non ne usciremo mai. Sorrido, però sapete come la vediamo da queste parti. Siamo a pagina 18 del Sole 24 Ore. Uno dei grandi dossier lasciati un po' sullo sfondo in questa fase tra elezioni e Covid. Ci sono solo 260 milioni in cassa. Ieri c'è stata l'audizione del commissario Leo Grande in Parlamento, in commissione. Siamo a pagina 18 del Sole 24 Ore. E a scriverne è, come sempre, Gianni Dragoni. Alitalia avrebbe già esaurito il carburante, cioè i soldi, se il 23 settembre non avesse ricevuto quasi 200 milioni di euro di indennizzi dal governo per i danni subiti per il coronavirus. È emerso dall'audizione del commissario della compagnia, Giuseppe Leogrande, davanti alle commissioni trasporti e attività produttive della Camera. Il commissario ha criticato i ritardi del governo nel varare la nuova compagnia, quella che poi appunto dovrebbe metterci i quattrini, che poi sono sempre nostri, per carità. Però questo è la nuova compagnia pubblica che dovrebbe rilevare le attività di Alitalia. Cosa succede? Succede che deve arrivare un decreto del Ministero dell'Economia di concerto con trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico e Lavoro per creare una nuova compagnia, il cui consiglio d'amministrazione dovrà fare il piano industriale. Decreto che ancora non c'è. Non con una certa polemica, il commissario Grande ha detto: lo aspettiamo a minuti, però è evidente che l'urgenza e l'emergenzialità che avevamo a maggio ce l'abbiamo ancora. Facciamo il prima possibile. Pensate che il 30 giugno, il 29 giugno, il presidente del Consiglio Conte ha annunciato che il presidente sarà Francesco Caio e la D Fabio Lazzarini, ma i due manager non sono stati nominati. E cosa succede? Che c'è tutto uno scontro tra il politico e l'interno all'Alitalia su chi deve andare a comporre il CDA, su chi deve entrare in carica, e in sostanza tutto resta fermo. Oddio, sai, poi quei 3 miliardi di fatto sono già stati stanziati e arriveranno, quindi c'è poco da fare, però così è. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e veniamo alle vicende Covid, alle file per i tamponi e anche a questa incredibile storia romana nella quale ci sarebbero 200 vigili urbani no mask. Una pausa. A me manda un po' ai nervi quando sento che i numeri non sono ancora preoccupanti. Ma che vuol dire? Che cosa aspettiamo perché siano preoccupanti? Che tutti ci ammaliamo? Ma quanti di noi conoscono persone che stanno male? Quanti? La situazione sta sfuggendo di nuovo di mano. Vi posso garantire che anche in provincia di Salerno, con 1.600-1.700 euro al mese, si è poveri. Secondo me i titoli dove dicono i numeri sono come quelli del lockdown è sbagliato, nel senso che sono stati fatti 120.000 tamponi, nel lockdown non ne facevano 120.000, nel lockdown facevano i tamponi quando andavi in ospedale, qui ci sono tanti che sono asintomatici. Sì, siamo perfettamente d'accordo su quello, sì, non sono numeri paragonabili. C'è, nemmeno sono d'accordo con l'ascoltatore che dice, per così dire, dobbiamo avere un'enorme paura. Semplicemente stiamo attenti, quello che diciamo da giorni, stiamo un po' più attenti, seguiamo un po' meglio questa regola della mascherina, cioè ci siamo rilassati, va bene, ok, ci siamo rilassati, basta, lasciamo alle spalle, riprendiamo un attimo in mano le cose, mettiamoci le mascherine, teniamo il distanziamento, punto. E solo una risposta all'ascoltatore che mi parla da Salerno. Guardi che quello di cui stavamo parlando sono le soglie Istat, poi uno può discutere le soglie Istat, però la soglia Istat di povertà è indicata in 1351 euro in alcune aree del sud, in un grande centro del mezzogiorno, 1700 e qualcosa in un grande centro del nord. È là che la disparità sul reddito di cittadinanza, appunto, è là che questo reddito di cittadinanza viene a mancare a 1.200.000 famiglie povere del nord, considerate povere statisticamente, appunto. Poi chiaro che questo l'inquadramento statistico non inevitabilmente non comprende tutti, può non comprendere tutti. È incredibile questa storia di Roma, Siamo a pagina 35 e mi scuso ancora una volta perché ogni tanto mi esce questa cosa di dire vigili urbani. No, ovviamente sono, si tratta di agenti di polizia municipale a Roma, Ce ne sono 200 che sono iscritti all'UGL e sabato saranno in piazza insieme a Forza Nuova, ai cospirazionisti del 5G e ai negazionisti del virus. Lo scrive questo Lorenzo De Cicco, sempre lui, a pagina 35 del Messaggero, e pesca sempre delle cose affascinanti che emergono dal Comune di Roma. Il Covid, una brutta influenza, dicono i pizzardoni anti-mascherina. non è mica l'ebola o il vaiolo. Che senso ha coprirsi la faccia all'aperto quando uno sta per i fatti suoi? Viene da chiedersi con quanto rigore questi agenti, appunto circa 200 quelli iscritti al sindacato, metteranno in pratica quando sono in servizio quanto prescrivono le ultime norme anticontagio, che nel Lazio sono più stringenti rispetto al decreto appena sfornato da Palazzo Chigi. La mascherina all'aperto a Roma e nelle altre province va indossata sempre, non solo in prossimità di altre persone o se non si è accanto ai famosi congiunti. E chi non lo fa va multato dai vigili, tra gli altri. Insomma, gli agenti convintamente no mask che sfileranno a Piazza San Giovanni con gli estremisti di destra e complottisti vari assortiti saranno poi scrupolosi nel far applicare l'ordinanza sulle mascherine quando sono in turno e in divisa, tanto che c'è qualcuno che inizia a chiedere il licenziamento di queste persone. A proposito di notizie dal Covid, sono un po' di racconti che troverete in giro, soprattutto da Roma, soprattutto dal Lazio, su questi drive-in per il tampone letteralmente al collasso. 13 ore di coda per i tamponi, racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 6. Da questo punto in poi l'attesa è stimata in 3 ore. In viale Palmiro Togliatti, nella strada che porta al centro Carni, così racconta Giovanni Rossi appunto sul Quotidiano Nazionale, dove la Regione Lazio ha aperto uno dei 15 drive-in della capitale, premurosi addetti dell'ASL Roma 2 disseminano il percorso di cartelli contatempo per i martoriati aspiranti al tampone. Vergogna, il commento più gentile dei pazienti, ma non troppo, intrappolati in code interminabili, modello autostrada a Ferragosto. Finestrini aperti, smog assicurato, finestrini chiusi, più rischi di contagio nonostante le mascherine. Nel caso di famiglie con un inconsapevole positivo a bordo, il record di attesa è alla Casa della Salute di Labaro, Roma Nord, con 12-13 ore di incubo per avere un tampone. Qua anche il Messaggero, ovviamente a pagina 4, ci parla di questo sistema in crisi, code attese per i risultati. Il Comitato Tecnico Scientifico dice che vanno raddoppiati i drive-in per i tamponi. E registriamo su Repubblica, pagina 5, un Andrea Crisanti, già ospite da queste parti, come ben sapete, non solo da noi, il quale a pagina 5 dice: il mio piano è stato ignorato. Sono stati mesi buttati e ora piangiamo, dice Crisanti. Lo chiamano l'uomo dei tamponi, scrive Viola Giannoli. Andrea Crisanti, 66 anni, romano, dirige il Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova ed è il padre del modello Veneto, che grazie a uno screening a tappeto ha salvato la regione dalla prima ondata del Covid. Qua si parla appunto di un numero record di tamponi, 125.000 che sono stati ieri. Però, dice Crisanti, 25.000 in più sono acqua fresca, una pezza calda se preferisce. Io ne suggerivo 300-400.000 al giorno. Il mio piano l'ho consegnato al ministro Federico D'Incà, al vice ministro Pierpaolo Sileri, entrambi lo hanno sottoposto al comitato tecnico scientifico, poi non ne ho saputo più nulla. Così Crisanti. Vorrei, prima di andare al traffico, portarvi su un... cambiamo un po' argomento e decisamente occupiamoci di donne, perché oggi i giornali ne sono pieni e sono pieni di belle storie. La prima è quella delle due Nobel per la chimica, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, premiate ieri, e come i pezzi migliori secondo me li trovate sul Corriere della Sera da una parte e sul Manifesto dall'altra. E da qua che peschiamo: lo hanno ottenuto per la prima volta nella storia di tutti i Nobel esclusivamente due donne, scrive Luca Tancredi Barone, la francese Emmanuelle Charpentier e la statunitense Jennifer Doudna, le madrine del metodo di editing genetico noto come CRISPR-Cas9, un metodo che come pochi ha cambiato la ricerca scientifica nell'ultimo decennio. Qualcuno lo chiama, per semplificare, lo dico agli ascoltatori, il copia e incolla, cioè il taglia e inserisci dell'editing genetico. È interessante il pezzo anche di Andrea Capocci sul Manifesto, che ci racconta che il CRISPR è una materia molto incandescente. Premiando Doudna e Charpentier per la scoperta, il Comitato Nobel è intervenuto in una materia incandescente. Da tempo è in corso una durissima battaglia legale tra le scienziate e altri due ricercatori, i bostoniani Feng Zhang e George George Church su chi possa considerarsi l'inventore della modifica genetica. Nel 2011 Charpentier con i suoi collaboratori fu in grado di determinare che la proteina Cas9 era in grado di funzionare come ancora per un punto specifico del DNA. Grazie a una collaborazione con Doudna, le due ricercatrici furono in grado di perfezionare appunto il meccanismo. E qua dice che c'è anche una questione di brevetti e di problemi legali in mezzo. Si interviene su una materia incandescente come appunto l'editing genetico. Ultime due storie che vi voglio portare, un po' più leggere se volete, di donne. Ieri Caterina Pasolini sulla Repubblica, pagina 29, intervista Arisa, la cantante, la quale ieri ha pubblicato una foto su Instagram senza filtri dicendo: basta, non ne posso più di mettere i filtri, di farmi vedere in un modo nel quale non sono, ho smesso di cambiare. E dice: l'importante è che ciascuno non viva il modo, viva il suo corpo come un obbligo, come l'unico mezzo per essere accettata, amata, apprezzata, come ormai era diventato per me, come se la bellezza fosse l'unico valore per sentirsi meritevoli di attenzione o di felicità. La bellezza non ha un unico canone e non è legata a una sola età, la giovinezza. E ancora dice: alle bambine dicono sei bella, sei brava, ai maschi sei intelligente, sei forte. Ecco, forse tutto cambia da lì, dal primo sguardo degli altri. Sempre dalla Repubblica, Valeria Strambi a pagina 33 intervista Martina Trevisan. Arrivata ai quarti di finale, come sapete, del Roland Garros, dopo una storia durissima, una storia di anoressia, è arrivata a pesare 46 kg e qua c'è il suo racconto che è bellissimo. È stata dura, ma insomma ne è emersa ed è tornata, se non ai vertici del tennis mondiale, comunque a farci sognare. Traffico. Mattino. E siamo con il nostro direttore anche del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Fabio, ciao, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Per quanto mi riguarda sono nascosto dietro la mascherina, sì, perché sono sul treno tra Roma e Milano. Ah, ok, quindi è impossibile. È impossibile sentirti meglio di così, evidentemente. Vabbè, no, scherzi a parte, adesso la mascherina l'ho tolta, sì, per cui mi sentite bene come tutte le settimane. Solo per 5 minuti, speriamo. Caro Fabio, io inizierei da questo. Oggi con il Sole 24 Ore mettiamo in evidenza e accendiamo i riflettori su una questione sulla quale i riflettori li stanno accendendo in pochi. È una questione che ha a che fare con le banche e con i crediti deteriorati. È il gettare lo sguardo un po' più in là, andare a vedere anche quello che può succedere nei prossimi mesi a causa appunto dei fallimenti e dei problemi economici derivanti da Covid, no? E purtroppo l'emergenza sanitaria, la pandemia ha picchiato duro sull'economia reale, sul mondo delle imprese, e di conseguenza questo determina una grande ondata con cui prima o poi dovranno fare i conti anche le banche, perché è chiaro che se le imprese sono in difficoltà c'è un problema a restituire i finanziamenti che hanno avuto. È vero che i debiti si pagano, i finanziamenti si pagano, però c'è anche chi non potrà pagarli, non potrà rimborsarli, di conseguenza è prevedibile che una nuova montagna di crediti deteriorati, di crediti a rischio, si riverserà sulle banche. Sì. La BCE, la Banca Centrale Europea, è molto preoccupata per questo e ha chiesto alle banche di tutti i paesi europei di dare conto, di prepararsi a questa grande ondata. Hanno risposto, ma le risposte che le banche hanno dato non soddisfano in una parte importante di casi la BCE, sì, che lo ha fatto sapere con lettere di richiamo, noi sul giornale oggi richiamiamo una grande strigliata della BCE alle banche. Sì. E abbiamo aperto il giornale. Se, Fabio, a proposito di banche, c'è una partita finanziaria, no, che si sta svolgendo, ed è quella di Leonardo Del Vecchio su Mediobanca. Ieri è salito, ha superato la quota del 10%. Agli ascoltatori che meno ne sanno, questa salita di uno 0,3 sembrerà poca cosa, invece il segnale che qualcosa sta cambiando in un grande punto dell'assetto finanziario italiano. Ci sono due asticelle in cui bisogna dare comunicazione degli acquisti fatti, la prima è al 10%, la seconda è al 15%. Del Vecchio ha superato con questo acquisto di modica quantità, ma è significativo perché per l'appunto supera quota 10% e di conseguenza può continuare a comprare senza dire niente a nessuno fino al 15%. Si chiama Mediobanca, in realtà l'obiettivo vero è Generali, e insomma ne vedremo delle belle. La posta in gioco è una delle poche grandi realtà che ancora questo paese ha, i Generali di Trieste. A proposito di grandi realtà, prosegue l'appuntamento che il Sole 24 Ore ha realizzato col Financial Times sul Made in Italy Restart, dedicato ieri ai campioni del Made in Italy che tentano la riscossa, tra gli altri Diego Della Valle, Paolo Barilla, che hanno partecipato nella giornata di ieri dopo una giornata più istituzionale. Che segnali si ricevono dal mondo dell'industria, dal mondo di questi appunto campioni nazionali? È un'iniziativa che abbiamo preso, la prima iniziativa che un gruppo editoriano ha organizzato. L'obiettivo è dare una spallata, cercare di dare un granello di sabbia piccolo ma importante per il rilancio delle esportazioni del Made in Italy nel mondo. Devo dire che i risultati sono stati eccezionali, forum che il primo giorno hanno seguito 10.000 utenti collegati, sì. Ieri erano 9.000, oggi partenza alle 2:30 del pomeriggio, è la terza e ultima giornata, la partecipazione è stata assai attiva, sì. Perché soltanto con la ripresa delle esportazioni, sì. Con il rilancio del Made in Italy avremo, sì. Qualche problema. Ti stiamo, Fabio, ti stiamo perdendo perché probabilmente il treno è passato, ve lo ricordo io l'appuntamento, se volete 14 si parte appunto alle 14:30 di oggi, ovviamente un evento online, si può seguire in diretta streaming. Oggi ci sarà tra l'altro la ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, sì, ci sarà anche Luigi Di Maio alle 17:05, il ministro degli esteri. Noi ci fermiamo qua, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con il consueto appuntamento con Paolo Mieli e poi, come vi dicevo, parleremo di immigrazione. Vorrei soffermarmi ancora una volta più che sul tema degli arrivi, sul tema dell'accoglienza. Lo faremo con l'ex sottosegretario all'interno della Lega Nicola Molteni, lo faremo col sindaco di Prato Matteo Biffoni, che è anche responsabile dell'associazione dei comuni esattamente sul tema dell'immigrazione. Cercheremo di fare un punto e di ragionarci intorno anche con posizioni diverse. Se voi vorrete intervenire 800 24 0024 e 349 238 6666, invece per i messaggi su WhatsApp anche audio, anzi soprattutto audio, va GR. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.